Maria l'Alchimista, detta Maria la Giudea, è considerata la prima alchimista nella storia dell'Occidente. Visse probabilmente ad Alessandria d'Egitto, dove c'era la più importante scuola, biblioteca e comunità scientifica dell'antichità, intorno al primo secolo d.C. Fu ispiratrice di Ipazia di Alessandria, che visse 2 secoli dopo e la considerò sua maestra. Le due donne sono state le madri della scienza sperimentale poiché entrambe hanno inventato pratici strumenti di laboratorio e misurazione ancora oggi utilizzati. Come Ipazia, con la quale ci sono molti paralleli tranne l'atroce morte, anche Maria è stata descritta come una donna bellissima. Probabilmente il carisma, l'intelligenza e la grandissima sapienza la rendevano quasi divina agli occhi della gente. È citata nel più antico testo di alchimia che si conosca come una delle grandi sagge dell'antichità. Sappiamo che oggi l'alchimia è per lo più considerata, secondo un'ottica duale e patriarcale, come una scienza di laboratorio che si muove tra storte e alambicchi, operando su metalli e piante. In realtà l'alchimia è stata ed è soprattutto un cammino interiore di risveglio di coscienza dall'illusione della densità. Sicuramente, dal poco che rimane dei suoi testi, questa straordinaria donna occupava il suo vasto sapere in moltissimi rami. Da una parte il lavoro pratico in laboratorio con l'alchimia metallurgica e verde, dall'altro quella che viene definita la grande opera, cioè l'attraversamento dello stadio di incoscienza di sé per arrivare al risveglio e all'illuminazione. Risulta abbastanza evidente per chi legge i frammenti di Maria in chiave esoterica, femminina, che potrebbe riferirsi al matrimonio alchemico, all'unione sacra di femminilità e virilità attraverso pratiche sessuali rituali. In base a ciò, Maria potrebbe essere stata anche una sacerdotessa degli antichi misteri che in Egitto si praticavano da tempo immemorabile. Va detto che probabilmente la stessa Ipazia conosceva queste pratiche. Il fatto che sia stata definita Virgo dalla letteratura maschile o Vergine non significa che lo fosse biologicamente. Ricordiamo che la parola Virgo significa fanciulla nel senso di donna non maritata e che il fatto che le antiche dee e donne di conoscenza non prendessero marito, ossia non sottostassero alle leggi patriarcali matrimoniali, non significa che non praticassero una sessualità sacra senza concepimento. Soprattutto perché sicuramente conoscevano erbe e rimedi che potevano evitare gravidanze non programmate, senza rinunciare ai benefici fisici e spirituali delle sacre pratiche sessuali rituali. Tornando alle sue invenzioni, a Maria si deve la creazione di sofisticate apparecchiature sperimentali per la distillazione e la sublimazione delle sostanze e dei metalli, e alcune tecniche di laboratorio ancora oggi utilizzate. Il principale contributo dato alla pratica di laboratorio da Maria consiste proprio nei primi apparecchi distillatori. Inventò per esempio il tribicos, un dispositivo per la distillazione molto efficace, composto da un recipiente in terracotta, un alambicco per condensare il vapore, 3 beccucci di erogazione in rame e diverse ampolle di ricezione in vetro, collegate con un impasto di sua invenzione. Inventò il cherotachis per la sublimazione di sostanze, usato anche per l'estrazione di oli vegetali e dell'acqua di rose. Con questo strumento Maria studiava l'azione che i vapori di mercurio, arsenico e zolfo esercitavano sui metalli. Era uno strumento formato da una sfera o cilindro con la calotta emisferica che veniva messa sul fuoco. Nella parte inferiore venivano riscaldate soluzioni di mercurio, di solfuro di arsenico e zolfo, mentre in cima venivano posti i metalli da trattare. I vapori attaccavano il metallo liberando solfuro nero, il cosiddetto nero di Maria, che da lei prese il nome e che si riteneva fosse il primo stadio per trasmutare in oro il metallo vile. Tuttavia, poiché l'alchimia è una scienza doppia, che ottiene in laboratorio solamente ciò che è già stato trasmutato nella coscienza dell'alchimista, mostrandolo ai suoi occhi, il nero di Maria potrebbe rappresentare in realtà anche lo stato alchemico della nigredo, lo stato della coscienza che non sa di se stessa e si identifica con la frammentazione delle forme, ovvero il livello meno sviluppato della creatura umana. Maria lasciò detto: se non rendi incorporei i corpi e non rendi corporee le cose prive di corpo, il risultato atteso non ci sarà. Questo suo aforisma lascia intendere la regola fondamentale dell'alchimia, ovvero che se lo spirito non compie a sua volta il lavoro di trasmutazione, essa non si verificherà nemmeno nella materia, poiché il laboratorio altro non è che lo specchio dell'interiorità dell'alchimista. E ciò si evince chiaramente, per chi sa vedere, dalla lettura di una lunga citazione, pervenutaci insieme ad altre numerose in diversi trattati, ad alcuni frammenti delle sue dissertazioni e a un testo dal titolo Maria Practica. La citazione si intitola Il dialogo fra Maria e Aros sul Magistero di Hermes, in cui sono descritte alcune operazioni fondamentali dell'alchimia. Eccone un passaggio nel quale le continue richieste al suo interlocutore da parte di Maria, se stesse comprendendo, dimostrano che, come sempre in alchimia, chi parla lo fa per metafore. Maria disse: Prendete dunque al lume gomma bianca e gomma rossa, il loro oro e la loro più grande tintura, e congiungete tramite un vero matrimonio la gomma bianca con quella rossa. Non so se mi avete capito. Sì, signora, disse Aros, sento e comprendo ciò che dite. Riducete tutto ciò in acqua che scorre, proseguì Maria, e purificate sul corpo fisso quest'acqua veramente divina estratta dai due zolfi, e fate che questa composizione divenga liquida grazie al segreto delle nature nel vaso di filosofia. Mi comprendete, Aros? Sì, signora, rispose Aros, vi capisco benissimo. A mio avviso, la gomma bianca e la gomma rossa di cui parla Maria potrebbero essere gli stadi alchemici dell'albedo e della rubedo, ossia lo stadio intermedio e quello finale, successivi all'anigredo, che devono essere ricongiunti o riattraversati a ritroso con un livello di coscienza superiore per arrivare all'unità, ovvero alla coscienza consapevole di sé che annulla la frammentazione del corpo. Operazione di scioglimento della molteplicità che potrebbe nascondersi nell'espressione acqua che scorre, come lei la chiama con linguaggio ermetico, alchemico. Tuttavia, in questo brano, Maria potrebbe anche riferirsi al matrimonio sacro tra femmine e maschio risvegliati, che conduce l'adepta e l'adepto all'unione mistica degli opposti nel rebis, il corpo con due teste, l'unione mistica delle due energie. Tornando alla scienza sperimentale e alle tecniche di laboratorio, ulteriori metodi di distillazione da lei ideati furono il bagno di sabbia e il bagno di olio, e infine prese da lei il nome una tecnica di cottura alchemica dolce, la bagnomaria appunto, che consiste nel riscaldare o cuocere alimenti o altre sostanze senza esporle al contatto diretto con il fuoco, ma inserendo il recipiente che li contiene in un altro pieno di acqua o altro liquido, il quale invece sì è a contatto con il fuoco. È possibile, anzi probabile, che le opere di Maria siano andate perdute nei roghi dolosi delle biblioteche dell'antichità, tra cui quella di Alessandria, voluto dal vescovo Cirillo, lo stesso che ordinò il femminicidio di Ipazia. Ed è possibile che l'accanimento con cui Ipazia voleva salvare i testi contenuti nella biblioteca di Alessandria dai roghi che l'impero romano e la nascente Chiesa cattolica stavano attuando non fosse tanto per salvare informazioni chimiche o fisiche, quanto perché nei testi di alchimia era contenuta la chiave per la grande opera, che avrebbe consentito a chi fosse in grado di operarla di non precipitare nei millenni bui della frammentazione e dell'oblio di sé, che proprio in quel periodo stavano iniziando con l'ingresso nell'era dei pesci.